la pancia borbotta, sed panciam borbottam, no? Dottora Voledo, in tempi non sospetti lei ha dedicato una sorta di inno alla banana. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way. Vedi che allora è giusto che io abbia sempre fame, perché guarda quanto lavoro. Vogliamo poi parlare anche della patata, vero? Sì. You like potato and I like potato. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. It's time. Drop what you are doing. Are you ready? The World Environment Day Challenge is back. How will you step up to the challenge? Check it out. La modella e attrice brasiliana Gisele Bündchen, il calciatore ivoriano Yaya Touré, l'attore Don Cheadle e Ian Somerhalder, chissà se ho detto tutto correttamente, questo è un modello, un attore statunitense, sono i testimonial per la Giornata Mondiale dell'Ambiente 2014. Avete sentito le loro voci, i loro messaggi in questo spot. Questi personaggi trovano, come cantano i Police, un messaggio in una bottiglia che annuncia il ritorno di questo appuntamento. Eh sì, un appuntamento che si celebra il 5 giugno, Giornata Mondiale dell'Ambiente, un'occasione per conoscere, ma noi vogliamo pensare anche per fare qualcosa, perché in questo periodo di forte crisi forse l'unica cosa che possiamo fare è fare qualcosa per tutelare e proteggere l'ambiente in cui viviamo, e questo vale ancora di più per il nostro paese che si prepara a ospitare l'anno prossimo l'Expo, che ricordiamo ha come tema nutrire il pianeta, e quindi diventa centrale trovare nuove soluzioni per un'alimentazione sana ed equilibrata e rispettosa dell'ambiente. L'edizione di quest'anno si concentra in particolare sui cambiamenti climatici. Noi a Cuore Denari cogliamo l'occasione per parlare del rispetto dell'ambiente dal nostro punto di vista, quello delle scelte che possiamo mettere in atto nella nostra vita, che oltre a fare bene all'ambiente, e lo vedremo in questa puntata, possono fare bene anche alla nostra salute e al nostro portafoglio. Pensa un po', Deborah, ma lo sappiamo perché abbiamo, preparando insieme la puntata, l'abbiamo sottolineato, che secondo la Coldiretti, consumando prodotti locali, di stagione, chilometri zero, facendo attenzione anche agli imballaggi, una famiglia può arrivare ad abbattere fino a 1000 kg di anidride carbonica l'anno. Per questo oggi abbiamo deciso di puntare sulla spesa, perché quello che decidiamo più o meno consapevolmente di acquistare, di portare in tavola, impatta sull'ambiente e sulla nostra salute, lo fa nel bene o nel male, e quindi ciascuno di noi può fare la sua parte, cominciando dalle piccole scelte quotidiane, perché come diceva Churchill è un peccato non fare niente col pretesto che non possiamo fare tutto. Allora che fare? Diamoci da fare. Eh sì, allora iniziamo presentando gli ospiti che ci accompagneranno oggi. Tre esperti, un tris d'assi, come dico io, Nicoletta, tre? Top di gamma. Tre top di gamma che saranno con noi per tutta la puntata. A ciascuno abbiamo affidato un compito preciso e ce lo facciamo raccontare direttamente dalla loro viva voce. Vediamo come si promuovono, se sono convincenti con i nostri ascoltatori. Iniziamo diciamo subito ai nostri ascoltatori di darsi da fare, di chiamare il nostro numero verde. Ottimo. E soprattutto di dare un voto allora anche ai nostri esperti. Li mettiamo se alla prova, sono così davvero convincenti. Qual è quello che vi ammaglia di più? Allora, intanto un gradito ritorno. Nel giro di pochissimi giorni abbiamo di nuovo con noi Antonio Caglielli. Buongiorno e bentornato. Grazie di questo invito. Buongiorno a voi. Buongiorno. A tutti gli ascoltatori. Da Trento è tornato a Torino, l'abbiamo fatto rispostare qua a Milano. Ci segue quest'uomo. Esatto. Ha un debole per noi. D'altronde però siamo irresistibili, non potrebbe essere diversamente. Ma perché un educatore finanziario viene a parlarci nella Giornata Mondiale dell'Ambiente? Diciamo che spendere i soldi può diventare un atto profondamente salutare, ecologico, ambientale, a patto che riusciamo a capire come farlo, e lo facciamo in modo consapevole, sempre più consapevole. C'è un grande legame tra il denaro, la salute e l'ambiente, e oggi parliamo di questo, di come farlo, di con chi farlo, di quali domande farsi. È importante perché ogni tipo di spesa Ci sono delle scelte, queste scelte sono anche le scelte che riguardano il mondo che vogliamo. Voi per esempio stamattina quando avete fatto colazione, sì, vi siete fatte la domanda: da dove arriva il caffè che avete bevuto, da dove arriva il croissant, la brioche o i cereali che avete mangiato, chi li ha fatti, come li ha fatti, dove li ha fatti, come li ha fatti arrivare da voi? Chi avrà fatto le mie gallette di mais, cara Nicoletta? Meno male che ha citato anche i cereali, non ecco, solo la brioche, perché in linea con noi abbiamo il nostro dottor Filippo Ongaro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Era già lì che scivolava, sulla brioche, io sui però, biscotti, ma Caielli, Deborah è perfetta. Sì, avevo anche l'ovetto sodo perché il dottor Ongaro lo raccomanda al mattino. Brava, bravissima. E da dove verrà quell'ovetto sodo? Ecco, non me lo son chiesta. È nato prima l'uovo o la gallina, anche di questo parleremo oggi, ma il dottor Ongaro, forse è intuitivo capire il suo ruolo perché ormai abbiamo metabolizzato l'idea che quello che fa bene a noi fa bene anche all'ambiente e viceversa, ma dottor Ongaro, anche lei deve raccontarci che cosa fa oggi qua e come può aiutarci a salvare l'ambiente. Ma insomma, diciamo che esiste un'interazione strettissima tra l'ambiente in cui viviamo e la salute. È una cosa intuitiva, lo si sa da tantissimo tempo, ma è diventato un pochino il centro di una nuova scienza che è l'epigenetica, che studia veramente l'effetto che le stimolazioni che arrivano dall'ambiente hanno sull'espressione dei nostri geni a livello cellulare. Quindi oggi siamo arrivati veramente a comprendere che ciò che viene dall'esterno, quindi il cibo, l'inquinamento, ma anche ciò che viene dall'interno, le nostre emozioni, gli stati d'animo, eccetera, sono dei potenti regolatori della vita cellulare in grado di accendere i geni buoni oppure di accendere i geni cattivi. Quindi è assolutamente di fondamentale importanza ed è una cosa sinergica, cioè più lavoriamo sulla nostra salute e più lavoriamo sull'ambiente e viceversa, è un'opzione da cogliere. Poi ovviamente ci sono tante cose di cui bisognerebbe parlare, i cibi raffinati, eccessivamente industriali, gli allevamenti intensivi, tutti questi metodi di produzione che sono aggressivi per l'uomo e anche per il pianeta, le tossine, le sostanze chimiche alimentari e non che finiscono comunque nei nostri alimenti, insomma è un mondo complesso. Ovviamente alle volte ce la mettiamo poi anche noi a dare il colpo di grazia con le nostre scelte quotidiane, quindi partiamo da quello che possiamo controllare. Bellissima quella citazione che avete fatto di Churchill, perché molto spesso è proprio così, la gente si frena e si ferma perché non può risolvere tutto e risolviamo le piccole cose che sono già importanti. Abbiamo parlato di pianeta, questo termine poi spiegheremo perché, ci dà come dire il là per presentare il prossimo ospite, il Dulcis in Fundo, definiamolo pure così, Stefano Polato, cuoco che ci mette un po' tutti d'accordo, dato che con le sue belle creazioni e buone soprattutto ci mette con le gambe sotto il tavolo. Polato, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. Ciao Stefano. Laura. Ecco, perché ho detto pianeta, Nicoletta? Perché Stefano Polato, raccontacelo tu, va oltre i pianeti. Per chi non se lo ricordasse, quando lo abbiamo invitato al Vinitaly a Verona. Stefano. Sì. Sono stato incaricato dall'ESA tramite un'agenzia spaziale aerospaziale di Torino, Argotech, a produrre il cibo per la prossima astronauta donna che volerà a novembre verso la base spaziale internazionale. È una bellissima sfida, quindi siamo andati oltre il pianeta, però la cosa interessante è che il tutto è volto a recuperare informazioni utili appunto per avere più risparmio, più shelf life di prodotto, quindi più conservazione, meno scarto, quindi è tutto, vediamo l'astronauta come una specie di lente di ingrandimento e in questo modo riusciamo a recuperare informazioni utili da utilizzare sulla Terra, proprio per ottimizzare costi, tempi e denaro. Anche il dottor Ongaro ha studiato, no, gli astronauti, perché chi sale sullo spazio ha un invecchiamento molto precoce, vero dottor Ongaro? Lo spazio invecchia, insomma. Sì, sì, senza dubbio è uno dei temi più interessanti nella ricerca spaziale fatta sugli astronauti, è proprio quello relativo all'invecchiamento. Si stima grosso modo, poi non è possibile dare una stima precisissima, ma si stima grosso modo che 6 mesi nello spazio equivalgono grosso modo a 10 anni a Terra, quindi processo di invecchiamento importante che colpisce vari organi e il medico che si occupa di astronauti è un po' finalizza il suo lavoro un po' alla tutela di questo fenomeno, quindi al rallentamento di questo processo di invecchiamento. Stavo pensando quando abbiamo invitato Paolo Nespoli, che a me invece sembra ancora un uomo in ottima forma e che non dimostra affatto gli anni che ha. Assolutamente, vero? Abbiamo apprezzato molto. Per cui gli ha fatto proprio bene forma, andare. Ma noi abbiamo detto altro fuori onda, ma adesso lei è perfetta, in ottima forma. Insomma, diciamolo, un gran bell'uomo, si è vede vero. Che lo spazio gli ha fatto bene. Infatti. Stefano, però, cosa fai oggi qua? Come ci aiuterai oggi? Allora, oggi cercheremo di dare dei punti fissi in modo tale da fare la spesa in modo intelligente. Okay. Prendiamo ad esempio il ristorante all'interno del quale io lavoro e lo trasportiamo nelle case dei nostri ascoltatori. Quindi cerchiamo di fare attenzione a tutto quello a cui fa attenzione un cuoco, uno chef che fa gli acquisti. Quindi il costo del piatto, il food cost, le rimanenze e riutilizzare gli scarti. Bravissimo, no, stavo pensando che abbiamo tre uomini che ci aiutano a fare la spesa questa mattina, siamo andate, il mondo va tutto a rovescio. Comunque tu non sorridere tanto perché non è, viene il ristorante di Stefano Polato, non Stefano Polato che cucina per noi, Abbiamo capito bene, cioè Stefano Polato rimane poi a casa sua. Va bene, troveremo comunque, un altro modo allora, per invitarlo. Se la spesa salva l'ambiente, diteci, e questo lo chiedo a voi che ci state seguendo da casa, che tipo di spesa fate, o meglio, descrivetevi in base alla spesa che fate. Ad esempio, siete abitudinari, fate la spesa tutti i giorni, una volta alla settimana, siete creativi, comprate quello che la fantasia del momento vi suggerisce, siete pianificatori, comprate in base all'offerta o solo a quello che vi manca. 800 24 0024. No, mi scusi, la signora evidentemente non sa molto di alimentazione. Un pasto a base di pollo fritto e patate fritte, signora, contiene circa 1000 calorie e il 50% di grassi. Questi dati sono stati associati a casi di disturbi cardiaci. Allora che vuoi mangiare? Insalata di tonno, pane integrale e acqua con limone, per favore. E insomma, a proposito di consapevolezza, siamo quello che mangiamo, l'abbiamo detto tante volte, anche stamattina siamo di nuovo in clima di citazioni, questo lo diceva Feuerbach, ma Antonio Caglielli, siamo in realtà anche quello che compriamo, quello che scegliamo al supermercato, il tema della pianificazione anche a tavola, so che lei è un grande divulgatore di questo concetto, perché? Perché è importantissimo l'atto della spesa quotidiana, parliamo della spesa alimentare, ma il discorso vale anche per le altre spese, è un atto estremamente importante e anche uno con cui abbiamo la maggiore dimestichezza. Comunemente si pensa che sulla spesa non si possa risparmiare più di tanto, in realtà si può fare tantissimo, bisogna farlo con un certo criterio, vediamo come. Come diceva, a volte quello che spendiamo non ci piace, no? Guardarci non ci piace da fuori. Questo succede molto spesso quando facciamo fare a tante persone l'attività del diario finanziario, che io ripeto a tutti a casa, vi prego, provate a farlo, scrivetele tutte le spese che fate nel momento in cui le fate per categorie. Queste categorie, se non abbiamo voglia di cercarle e di sforzarci, possiamo trovarle sul sito dell'Istat e cataloghiamo le spese che facciamo. Ed è importante perché e si scoprono delle cose molto importanti di noi, si scopre qual è il nostro stile di vita, il nostro stile di consumo. A volte non ci piace, ci dà un po' fastidio, è uno dei motivi per cui a volte abbiamo la resistenza a fare questo diario finanziario, però è importante perché attraverso questo strumento ci conosciamo e le scelte sono importanti. Mi piaceva moltissimo quello che ha detto Stefano Polato, portare il ristorante a casa. Beh, io provo a fare il contrario, no? Quindi Stefano mi comprenderà in questo, cerco di far fare alle famiglie di andare al ristorante scegliendo il menù che vogliono mangiare, ed è fondamentale perché normalmente tanti si orientano, vorrei sapere anche da casa cosa ne pensano, come si orientano, se facendo la lista della spesa o il menù, e poi vedremo la differenza tra i due. E fare il menù è una cosa fondamentale perché si parte da quello che vogliamo, quello che scegliamo, quello che ci piace mangiare, quello che desideriamo, anche quello che ci fa star bene se abbiamo esigenze di questo tipo, e poi a partire da quello, dopo che abbiamo fatto il menù, come in un ristorante, scegliamo che cosa mangiare. Almeno non andiamo a chiedere esattamente gli ingredienti, non vengono nominati, non sempre. Però è importante perché, avendo fatto il menù a casa, in una situazione in cui siamo calmi, tranquilli e siamo poco soggetti agli stimoli di chi vuole farci comprare qualcosa, orientarci negli acquisti, facciamo l'elenco delle cose che servono a realizzare il menù, come se fossimo dei buoni cuochi. E lei dice che c'è una grande differenza fra lo scontrino che deriva da quel modo di fare rispetto invece all'andare a fare la spesa un po' all'arrembaggio. Ci sono poche ricerche, pochi esperimenti su questi, si riesce a arrivare arrivare fino a oltre la metà. Pensate questo, qualunque organizzazione, una mensa, i comuni, le cooperative che realizzano i servizi, certo, di ristorazione, fanno la spesa per menù e non soltanto pianificano a distanza di un anno. Ora naturalmente non mettiamo ansia al radioascoltatore, non si fa per un anno, perché sono menù che poi si ripetono, poi cambiano secondo quelli di stagione. Però il raggio temporale ragionevole qual è per lei? Una settimana? Un mese addirittura. Sì, possiamo pianificare menù di un mese, dice lei? Non dobbiamo diventare matti, basta scaricarli da internet e scegliere che cosa mangiare. E poi approfittiamo delle offerte. Io sono un innamorato delle offerte, ma al momento giusto. Cioè, io ho il mio menù, poi trovo l'offerta, cosa faccio? Mica dico, ah, io ho fatto il mio menù, non lo trovo. Cambio menù. Hai capito. Vedi? Ma tu riusciresti a fare una pianificazione per un mese di tutti, certo, i menù? Certo, anche di due per ma quello. Dai, ma io che sono da sola non riesco. Tu no, con la famiglia come faresti? Assolutamente. No, perché cerchiamo anche di sollevare qualche critica rispetto a questa idea di Antonio Caglieli. No, poi nell'atto pratico, quali sono le difficoltà nell'adottare questa prassi che, come dire, nella teoria è assolutamente virtuosa. Questa prassi però salverebbe il tempo, tantissimo, denaro. E oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, rispetto all'ambiente, perché questa scelta è da suggerire, da consigliare? Perché possiamo scegliere i prodotti di stagione, possiamo approfittare di qualcosa che sta vicino a noi, possiamo decidere e ragionare se quello che compriamo, che incidenza ha nel mondo, che impronta lascia nel mondo. Quindi sono scelte a cui non badiamo tanto, ma che insomma, se guardiamo con consapevolezza i nostri acquisti, vengono fuori, sono molto importanti. A proposito di consapevolezza, che è la parola che abbiamo così abbinato ad Antonio Caglieli con la frase di Feuerbach, siamo quello che mangiamo, al dottor Ongaro però io gli appiccico Ippocrate, che lui tra l'altro cita anche, vero dottor Ongaro, nel suo primo libro l'ho visto. Sì, è vero. Vero? Fai che il cibo sia la tua medicina, che la medicina sia il tuo cibo. Purtroppo oggi quello che portiamo a tavola non è sempre in grado di svolgere questo compito, perché siamo sovralimentati e malnutriti, lo ripetiamo spesso con lei, troppi cibi raffinati, sempre più poveri di sostanze nutritive. Per questo la scelta che suggeriva Caglieli di consumare i prodotti di stagione a chilometro zero fa bene all'ambiente, fa bene al nostro portafoglio, ma fa bene anche alla salute. Insomma, non è un caso, dottor Ongaro, che le stagioni offrano prodotti diversi. No, non è un caso assolutamente, e voglio dire, come non è un caso che Ippocrate ritenesse quella frase così vera, ma d'altra parte Ippocrate non era però circondato da fast food, panini, tramezzini, pizzette e centri commerciali, non c'era questa sovrabbondanza di cibo ovunque e i cibi erano pressoché tutti naturali, quindi in natura noi possiamo certamente affermare che il cibo ha questo ruolo. Quando il cibo diventa un prodotto industriale questo ruolo chiaramente viene perso, tuttavia c'è sempre il metodo per riuscire a sfuggire almeno in parte a questa logica. Recuperare la stagionalità, per esempio, sicuramente è uno di questi. Bisognerebbe anche recuperare diciamo un pochino la struttura della nostra alimentazione. Mi piace l'idea della pianificazione, magari non deve essere una cosa che diventa un lavoro in più, ma il fatto che adesso tutto è in qualche modo disperso nel corso della giornata, non ci sono orari, si mangia un po' di qua, un po' di là, ci si siede sempre meno a tavola, anche questo sembra in realtà di mangiare meno, ma in realtà non è così. Mettici poi la sedentarietà, che fa ovviamente gioca un ruolo importante, ci accorgiamo che nonostante sono 50 anni che diciamo che bravi che siamo noi che facciamo la dieta mediterranea, abbiamo dati recenti indicano il 32% di soggetti in sovrappeso, un 10% di obesi, insomma dobbiamo cominciare a farci delle domande. E quindi anche chiederci che prodotti, che spazio occupano nella nostra spesa i prodotti freschi e quelli conservati, la carne, il pesce, le verdure, la frutta. Pochi giorni fa stavo facendo la spesa al supermercato e avevo un carrello insomma abbastanza pieno di frutta e di verdura, dietro c'erano due bambini con un papà che avevano un carrello di plastica, c'era solo roba di plastica dentro, tutta confezionata eccetera, i bambini bisbigliavano, dicevano guarda tutta frutta e verdura, sì. Cioè, sembrava quasi che lei fosse il marziano, insomma. Adesso ho quasi sentito in colpa, dico aspetta che piglio due bibite di plastica e vi faccio contenti. Che mettere in crisi il dottor Ongaro è veramente ci vuole tutto. È una bella sfida, però di fronte ai bambini anche lui vedi un cuoricino tenero si scioglie. Mi piaceva che pensassero così, no? Dovrebbero, certo, sarebbe bello che dicessero guarda papà aspetta andiamo indietro e prendiamo prendere le ciliegie o le fragole. Tra l'altro stavo pensando, bisogna vedere quali ciliegie, perché c'è una Ho preso subito il frutto sbagliato. Perché da dove vengono? Da dove vengono? C'è Coldiretti che ha tirato fuori una bella indagine, poi magari la raccontiamo. In realtà è da un po' che mi stuzzica questa osservazione, perché lo chiedo a te, Nico, perché tu comunque hai famiglia, magari non ti tranquillizza un po' il fatto di, come suggerisce Caglielli, pianificare i passi, nel senso che io ho molte amiche che hanno figli, io sono sola, quindi magari ho limitatamente questo problema, ma anche mia sorella che ha 3 bambini, e ogni giorno comincia, tipo nel pomeriggio, a dire chissà che cosa faccio questa sera per cena, no? Il fatto di pianificare i pasti, forse anche dal punto di vista psicologico, tranquillizzerebbe molte mamme. Caglielli, che dice? Tantissimo, a patto che, mi è venuto in mente, sentendo giustamente il nostro amico cuoco, che chi cucina sia anche quello che gestisce la spesa, perché se no diventa un problema, perché se io che cucino non so su che cosa posso contare. Diciamo che spesso in famiglia coincidono queste figure. Devo dire che tocca sempre a una fare. Però oggi con Stefano Polato, e chiedo conferma al nostro amico, Stefano ci insegnerà a pianificare il menù, a fare un menù settimanale per risparmiare tempo e per rispettare soprattutto l'ambiente. Ma vogliamo andare a sentire anche i nostri ascoltatori che abbiamo un po' trascurato, ma che invitiamo a raccontarci che tipo di spesa fate, la percentuale di frutta e verdura che c'è nella vostra, o carrello di plastica, come o avete lo chiamo, il carrello di plastica, se riuscite a fare la lista, se, che tipo di compratori siete, siete un po' creativi oppure, certo, come suggerisce Caglielli, belli, precisini, organizzati. Elisa e Marina, dove andiamo? Prima a Trento o prima a Roma? Andiamo a Trento, perché la trottola la voglio proprio sentire. Elisa, buongiorno. buongiorno a voi, buona giornata. Sì, io dicevo che mi sento una trottola nell'organizzazione della spesa, perché essendo in pensione ho tempo e quindi mi dedico a cercare i prodotti più genuini, più poi abitando in Trentino non è neanche così difficile. Quindi Antonio Caglielli lo abbiamo ospitato anche venerdì, se lei ci ha ascoltato venerdì scorso ne eravamo in diretta al Festival dell'Economia di Trento, certo, in piazza Tasi. Sa che cesto di frutta che ci ha portato a Caglielli? Davvero? Dalle vostre parti? Ma esatto, che sì. E quindi insomma lei l'abbiamo invitato anche oggi apposta, si è presentato a mani vuote. Fanno sempre così gli uomini, prima volta fanno gli splendidi, già la seconda si sentono a casa loro, è finita lì la magia. E quindi questo trottolare, Elisa, dove la porta? E mi porta in un punto vendita dove compro frutta e verdura, che viene dalla Val di Gresta, che è una valle, la valle degli orti del Trentino, e quindi so che è comunque coltivata in un certo modo, è tutto biologico, eccetera. Poi la carne dagli allevatori trentini, e quindi anche lì la provenienza si spera sia certa. E poi la frutta molto spesso arriva dalla Sicilia e anche lì vado dove c'è questo punto di raccolta. Il tempo che Elisa ha a disposizione è veramente una risorsa. Elisa, e lei, scusi Elisa, perché noi parleremo non solamente di spesa ma anche dove mettiamo la spesa. Come va a fare la spesa? Col carrellino, con la sportina, si fa dare i sacchetti di carta? Di plastica, quelli di cotone? No, ho dei borsoni miei che ho sempre in macchina e che restano sempre quelli. Io non porto a casa meno plastica possibile, e se no uso le cassette di legno per la frutta e la verdura. Hai capito pure? Carico in macchina. Elisa è veramente stra ecosostenibile. Vediamo un bollino blu a Elisa. Grazie Elisa. Noi abbiamo Stefano Polato in linea, che sta pensando al nostro menù, ma penserà anche agli avanzi, vero? A riciclare gli avanzi. Stefano, ci insegnerai anche a fare questo. Vogliamo lasciare i nostri ascoltatori prima dei mercati con una domanda? L'hanno fatta tutti i tuoi colleghi. Sì, allora direi: come riutilizziamo il pane che abbiamo avanzato, che ormai si è rinsecchito, raffermito, e poi come possiamo riutilizzare gli scarti di carne e gli scarti di verdura. Ok, allora l'arte del riciclo, ma adesso non tanto riciclo, torniamo al mercato, ai mercati. Cuore e denari. Raise your voice, not the sea level. Raise your voice, not the sea level. Raise your voice, not the sea level. Raise your voice, not the sea level. Raise your voice, not the sea level. Can we do it? Yeah. Raise your voice, not the sea level. Raise your voice, not the sea level. La voce non il livello del mare è lo slogan scelto per l'edizione di quest'anno della Giornata Mondiale dell'Ambiente di cui parliamo oggi. Anche noi vogliamo fare delle piccole scelte quotidiane, renderci più prendere la consapevolezza che possiamo fare cose importanti, una anche piccola, se non tutto. Ha una piccola assunzione di responsabilità, la possiamo definire in questa maniera. E allora oggi vi chiediamo, abbiamo rubato l'idea da Antonio Caielli: quando portate in tavola le cose sapete da dove vengono? Ve lo chiedete? Un ascoltatore ci scrive che lui non vuole neanche saperlo perché pensa di portarsi in tavola un sacco di veleni, allora chiude gli occhi. Che tipo di sport utilizzate per andare a fare la spesa? Utilizzate, è una buonissima idea quella suggerita dalla nostra amica Trentina, della cassetta di legno. E io lo faccio regolarmente al mercato e devo dire che è anche molto comodo. Anche perché, non so se ci hai fatto caso, quando il mercato si smobilita peraltro, poi i vari venditori ambulanti le lasciano tutte lì, per cui è un peccato, no? È un bene portarsele a casa. Quindi, magari se vi siete dimenticati andando al mercato di portare la vostra sportina, chiedete al fruttarolo di regalarvi una cassetta e quindi fate anche meno fatica a portarla piuttosto che le borse. Comunque ditemi come la portate voi e soprattutto anche diteci che cosa mangiate e come riutilizzate gli avanzi. Pioveranno polpette oggi, Stefano? Sì, polpette di carne, di verdura, chi più ne ha più ne metta. Panature, passati. Non solo, Elena da Varese dice che con il pane raffermo, immagino avanzato, fa pizzette di pane, gnocchetti di pane con formaggio, verdure affettati. E qua il dottor Ungaro è svenuto e si rifiuterà di commentare la scelta di questa ascoltatrice. Lo vogliamo sentire, Nicoletta? Certo. Però, dottor Ungaro, piuttosto che buttare via il cibo, no, qualche volta magari fare un piccolo sgarrino. Ah, beh, lo tollera. Buttarlo via, certo. Con pane e carne rimasti preparo la zuppa per i miei cani. Celeste fa una scelta anche di altro tipo, d'altronde anche gli animali dobbiamo nutrirli e possibilmente bene, insomma, no? Nicoletta. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori che sono Marina da Roma e subito dopo Alda da Novara. Molte donne oggi. Nonostante abbiamo tre uomini che fanno la spesa e che ci dicono come farla, però qua le donne si stanno rimettendo subito, li stanno rimettendo subito a posto. Marina, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione e per l'argomento trattato. Ci dica. Niente, io ho fatto la scelta vegana prima di tutto per motivi etici dovuti all'evitare la sofferenza agli animali. Poi però ho scoperto un altro mondo che è proprio quello dell'impatto ambientale oltre che quello sulla salute, perché per avere un chilo di carne occorrono 20 kg di soia, cereali o quant'altro, che per essere coltivati vanno a mangiare terreno, tantissimo terreno, tanta acqua, perché per una fettina di carne, un chilo di carne ci vogliono 15.300 litri di acqua, che sembrano un'enormità, ma non è così, perché se si pensa a tutti i campi che devono essere coltivati, agli allevamenti che devono essere puliti, gli animali che devono bere, eccetera, eccetera, in realtà il consumo è proprio questo ed è proprio un dato FAO, non è un dato preso a caso. E oltretutto anche l'inquinamento dato dalle deiezioni degli animali, perché producono metano, gas serra, in una percentuale del 18%, molto più alta della percentuale di inquinamento prodotto dalle auto. E questo è un problema che non si può risolvere né con la scelta biologica né con la scelta del chilometro zero. L'unica scelta è passare a un'alimentazione vegetariana per salvare l'ambiente. Vegetariana, preferibilmente vegana, perché chiaramente negli allevamenti industriali eccetera ci sono anche polli, mucche da latte e tutto quanto. Marina si sarà fatta portavoce, immagino, anche di molti altri ascoltatori che hanno compiuto le medesime scelte, certo, di carattere etico, e poi avete sentito anche come ha ben documentato tutto l'aspetto e le conseguenze ambientali poi di certe scelte. Dottor, sì. Io farei un giro di tavolo dei nostri esperti, perché ciascuno può declinare un po' lo spunto suggerito dalla nostra ascoltatrice. Dottor Ongaro, sul tema scelta vegetariana e vegana, e abbiamo dedicato veramente tantissime puntate per sottolineare i vari equilibri che vanno comunque mantenuti, i capisaldi dell'alimentazione, l'introduzione al posto delle proteine animali, delle proteine vegetali, il passaggio che da un tipo di dieta a un altro deve essere comunque graduale, molto spesso accompagnato. Ma, dottor Ongaro, no, questo per dire che avevo imparato un po' da lei, No, è un tema ovviamente molto, molto dibattuto e molto attuale. Tutto ciò che Marina ha raccontato è vero, però va fatta anche una precisazione che ha un peso molto pesante, che è sì, sono tutti dati che riguardano l'allevamento intensivo degli animali. Quindi attenzione, se passassimo o ritornassimo ad allevamento, a meccanismi di allevamento che sono meno intensivi e più naturali, pensiamo al vecchio modello della fattoria piuttosto che a quello dell'industria della carne, i dati sarebbero completamente differenti. Quindi diciamo che si parte da un'analisi che è assolutamente veritiera, ma che riguarda un aspetto che tutti riteniamo essere un pochino problematico e che dovrebbe essere in qualche modo gestito per il futuro del pianeta e dell'uomo in un altro modo. Tra l'altro io lo vedo dal mio punto di vista più di medico, certo. Sappiamo anche da tempo ormai che anche la qualità delle carni che derivano da un certo tipo di allevamento piuttosto che da un altro è meglio o è peggio in termini di nutrienti. Non parlo di sicurezza, eccetera, parlo soltanto di quanti grassi hanno, che tipo di grassi, quante vitamine, eccetera. Quindi sì, è un problema gigantesco. D'altra parte l'impatto dell'agricoltura che citava Marina, perché stava parlando anche dell'impatto ovviamente della coltivazione per creare mangimi, sì, non va trascurato anche che l'agricoltura è ciò che poi dovrebbe sfamare tutti quelli che passano da un'alimentazione che comprende animali ad una che non li comprende. Cioè, attenzione, se parliamo di numeri ampi, adesso il fenomeno vegano-vegetariano, per quanto se ne senta parlare molto, è un fenomeno minoritario, ma se tutti passassero un'alimentazione così ci sarebbe comunque il problema di scarsità di risorse. Campi. E infatti devo dire che la telefonata di Marina ha acceso molto dibattito, infatti, anche stanno arrivando tantissimi messaggi, i nostri ascoltatori si dividono e... È un discorso che polarizza molto. Polarizza, ma poi alla fine non se ne esce, no, dottor Ongaro? Posso permettermi una cosa? Credo che sarebbe meglio appunto che tutti quelli che hanno una sensibilità, una consapevolezza nei confronti dell'alimentazione discutessero pacatamente di come migliorare il sistema. Invece purtroppo diventa sempre, io la penso così, la penso no, no, diventa un po' una tifoseria. Allarga le braccia, perché? Dottor Ongaro, non so come quanto sono d'accordo con lei, ma stiamo parlando di qualcosa che ci unisce, non che ci divide. Bravo, e sono delle scelte singole, individuali. Io non mi permetterei mai di dire a una persona come cambiare, ad esempio, il suo modo di spendere i soldi. Quello che posso fare è metterla davanti a una, diciamo, a un far comprendere perché è arrivata a fare quella scelta, e poi sta nella responsabilità delle persone cambiare. Ma sicuramente quello che unisce tutti, vegetariani, vegani, carnivori, eccetera, sta nel fatto che abbiamo una responsabilità legata, una consapevolezza, e poi nasce la responsabilità legata al fatto che il nostro acquisto e quindi il nostro consumo di cibo ha dietro un mondo. Se lo vogliamo vedere, questo mondo si apre e ci fa conoscere tutta una realtà fatta di realtà più o meno piacevoli, eccetera. Non lo capisco tanto, faccio un po' fatica davvero a vedere che cosa divide le persone. Credo che si interessi di tutti e che tutti dobbiamo fare la nostra parte, ognuno singolarmente. Un buon piatto ci unisce. Beh, assolutamente. Soprattutto se lo cucina Stefano Polato. Stefano. Sì, allora io volevo intervenire per fare una, per stabilire un punto fermo che secondo me va identificato. Oltre al decidere la spesa settimanale, quindi fare un programma dettagliato, e apprezzo molto l'approccio tecnologico, se così vogliamo dirlo, di Caielli, quando dice che in internet si trovano delle liste già fatte, ci sono effettivamente delle applicazioni, dei sistemini fantastici da scaricare anche gratuitamente, che aiutano veramente chi deve andare a fare la spesa, e questo lo apprezzo molto. In secondo luogo, secondo me bisogna fare molta attenzione agli strumenti che si hanno a casa, perché è determinante stabilire la spesa in funzione anche degli strumenti che ho. È inutile che vada a comprare 3-4 tipi di alimenti e che vadano cotti in modi diversi. Quindi uno lo faccio bollito, l'altro lo cucino a vapore, l'altro lo faccio in forno e l'altro al microonde. Ecco che dobbiamo invece cercare, sempre con l'occhio rivolto al risparmio anche energetico, di ottimizzare una unica fonte. Faccio un esempio, adesso andiamo incontro all'estate, quindi le insalate di cereali, naturalmente integrali, li facciamo bollire all'interno di una pentola, ci compriamo il cestello in bambù e sfruttiamo il vapore che emette la cottura del riso. Due raviolini sopra. Oppure la verdura per condire la stessa insalata. Quindi bisogna giocare anche con coscienza. Io ho la vaporiera a strati. Le piace? Fantastica, brava. Perché permette... Forza Nico, adesso te la regalo anche a te. Che sempre la prima della classe, io non ce l'ho. L'ho presa coi punti. E adesso la vado a cercare pure io. Sai che ti dico, l'acquistone del fine settimana, me la regalo per il compleanno. Quindi scegliamo anche in base al metodo di cottura. Ottimo. Assolutamente sì. Questa mi piace. Una bella cosa anche di cui discutere a cena, a tavola con la famiglia, perché se uno vuole la cotoletta, quell'altro vuole invece la minestrina, e quella è la mamma, deve fare così, un po' comporre quattro cucine diverse con quattro modi di cottura diversi, quindi cerchiamo anche di fare un po' di educazione anche su quello. Caglielli, ci metta una chiosa finale. Sono completamente d'accordo, ecco. Io sono per una famiglia che mangia poche cose, che non ci sono cinque piatti. È a casa sua che succede? No, in casa mia si fa così, devo dire, i bambini sono però è molto bello quello che ha detto Stefano, cioè è davvero una cosa importante, perché noi scegliamo, ecco, noi facciamo abbiamo molta poca dimestichezza con lo scegliere, e l'atto di fare il menù di casa e di andare a comprare è un atto di scelta, è un atto potentissimo. Benissimo. Che ci rimette davvero in condizione di riappropriarci del mondo. E a proposito di scelte, noi non possiamo scegliere, no, perché dobbiamo mandare subito le informazioni sul traffico, ma voglio chiedervi: qual è la scelta che volete fare oggi per la giornata mondiale dell'ambiente? La vaporiera tutta la vita. Cuore e denari. Secondo il dossier della Coldiretti, lavorare e vivere green in Italia, elaborato in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, si evidenzia come, in controtendenza agli acquisti alimentari crollati ai minimi da 33 anni, la crisi faccia volare la spesa green. Dunque, nel paniere degli italiani finiscono prodotti a chilometro zero, cibo bio, alimenti sfusi e specialità DOP IGP. Tutti generi che raggiungono il fatturato record di 20 miliardi nel 2013, ossia più 65% rispetto a inizio crisi nel 2007. Sempre più italiani, sottolinea Coldiretti, mettono nel carrello prodotti locali che non inquinano, non dovendo percorrere lunghe distanze, ma anche cibi biologici non trattati con la chimica, alimenti sfusi senza imballaggi o specialità a denominazione di origine, che conservano la biodiversità del territorio. Ma, Deborah, l'abbiamo citato prima, l'indagine sottolinea anche l'altro lato della medaglia, individuando anche gli alimenti che inquinano di più e compaiono sulle nostre tavole. Tu avevi citato le ciliegie, ma tu pensavi alle ciliegie di tuo zio, quello che ti porta anche i carciofi. Zio Piero, saluto, e mi dà anche le uova che mangio il mattino, possibilmente, perché poi zio non Piero, è che lo vedo sempre. Si ricordi un po' anche della Nico, perché sono stata io a lei. Sai che vado questo weekend, porterò una bella scorta di uova fresche per tutti. Però, a parte le ciliegie dello zio Piero, noi l'indagine parlava delle ciliegie cilene, dei mirtilli argentini, degli asparagi del Perù, che sono proprio in vetta alla top 10, perché arrivano sulle nostre tavole dopo lunghi viaggi e quindi consumano petrolio, emissioni di gas serra, prodotti che, come le more del Messico, continua l'indagine, i cocomeri del Brasile, i meloni di Guadalupe, i melograni di Israele, I fagiolini dell'Egitto. Chissà che faccia. Stefano, che faccia hanno i fagiolini dell'Egitto? Scusami. Ah, guarda, i fagiolini dell'Egitto sono uno spettacolo. No, nel senso che sì, qua colgo l'occasione per parlare di fagioli. Allora, questo è un altro, è come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, altro stereotipo, che il fagiolo va mangiato d'inverno, oppure si mangia solo l'inverno nella minestrone, nella zuppa e in versione calda. Invece il fagiolo, i veneti lo mangiano sempre, invece. I veneti lo mangiano sempre, è freddo, caldo, pasta e fagioli fredda, calda, come uno preferisce, ma bisogna sottolineare anche in questo caso, il fagiolo è un frutto, è Si può consumare anche con due fettine di cipolla, olio, sale. In centinaia di versioni. Comunque il concetto rimane quello. Se vogliamo consumare il prodotto a chilometro zero, usiamo il prodotto di stagione, insomma, altrimenti è la condizio sine qua non. E i fagioli piacciono anche al dottor Ongaro, vero dottor Ongaro? No, assolutamente, anche perché sono il primo modo più semplice e più naturale per chi lo volesse di ridurre le proteine animali e aumentare la quota di proteine di origine vegetale. Tra l'altro, ecco, i fagioli hanno tante proprietà, sono ricchi di fibra, quindi hanno anche un ruolo come carboidrati, è un alimento molto utile. Volevo sottolineare rapidamente una cosa, che questi dati sono molto interessanti riguardo alla spesa bio, chilometro zero, eccetera. Poi però io ho visto recentemente i dati Nielsen dei prodotti più venduti nei supermercati italiani, e lì il quadro è completamente differente. Ci stanno ancora i primissimi posti le merendine, i biscotti, le bibite. Quindi io ho un po' l'impressione, tornando al discorso che faceva anche Caielli di divisione o unione, che ci stiamo un pochino dividendo. C'è chi non ci pensa che sta andando nella direzione di un'alimentazione in realtà sempre più industrializzata. Chi ci pensa sta facendo le scelte più consapevoli. Bisogna allargare soprattutto questa consapevolezza al di là della teoria che ci sta dietro, no? Perché così tutti possono fare delle scelte che sono perlomeno un po' più il rispetto della salute e dell'ambiente. Mi intrometto solo per dire che Antonio Caielli lo sa talmente bene tutto questo che si è inventato uno spettacolo che sta andando in giro per l'Italia, che si chiama C'era una volta il waste, che non è il west appunto inteso nella tradizione cinematografica, ma è un altro concetto. Caielli, sì, c'era una volta il waste food, tra virgolette, waste food, food waste, e lo spreco alimentare. L'altro ideatore, autore, interprete, che è Massimo Melpignano, con cui abbiamo lavorato a questo modo di comunicare questi temi, ci sta portando tanta attenzione. Devo dire che ci stanno chiamando da tante parti e non sarà facile tra l'altro andare ovunque, ma è importante perché ci siamo chiesti all'inizio che c'entra due che si occupano di finanza a vario titolo, che cosa c'entra con lo spreco alimentare. Ma c'è un nesso fortissimo tra il modo in cui usiamo i soldi e quanto sprechiamo, e abbiamo cercato di affrontarlo da tanti aspetti, da quanto si perde nella produzione, nella distribuzione, ma concentrandoci soprattutto su quello che riguarda noi, quello che possiamo fare noi quando consumiamo, perché noi consumiamo molto più di quello che ci serve e potremmo dire che siamo distratti. A volte sì, a volte c'è un sistema costruito proprio per farci consumare di più, quasi a dire che lo vedete, no? Le campagne pubblicitarie dicono risparmia comprando di più. No, comprando di più non risparmia, è un ossimoro, no? Una contraddizione in termini di risparmio comprando di più. Come si fa questo? Cerchiamo di far sorridere le persone facendole ragionare e facendogli testare con di persona che cosa significa le scelte alimentari che fanno, quanto incidono nell'ambiente, quanto incidono nelle loro tasche. Una sorta, la chiamiamo, di ecologia finanziaria, quello che mettiamo insieme la parte finanziaria e la parte ecologica, ambientale. Quindi tu lei è capace anche a farci ormai, qualche... Ormai, possiamo liberarci, facciamo difficoltà. Perché io ho fatto anche un viaggio, da Trento ad Asti. Guarda, ormai i nostri ascoltatori sanno tutto di noi. E ci fai anche... E sei venuta fuori un pochino traumatizzata, secondo me. Sì, adesso devo dire che per me andare al supermercato è un incubo. No, ci ha bacchettato pure sulla tessera raccogli punti. E da dove vieni e cosa vieni e lo compero perché sento o lo compero perché cosa non sta facendo? Sento. Qua dentro una si sta verificando. Alimentare, scontrino idrico, scontrino tossico. Ah, sì. Io mi sembra incredibile pensare che io vado a comprare qualcosa e non posso sapere quanto è inquinato, quanto ha sporcato, quanta acqua ha consumato quello che compro. Io lo vorrei sapere. Io vorrei trovare in uno scontrino, oltre allo scontrino di quanto è costato, anche quanta acqua, ad esempio, quanto CO2. Abbiamo fatto due esempi come questo. Io ci vorrei trovare invece le ricette di Stefano Polato. Sai che ti dico? Nello scontrino, comprando quattro alimenti sotto track, con questi quattro alimenti fai questa cosa. Posso inventarmi questa cosa qui? Questa è molto bella. Facciamo un'app nuova? Stefano, ci stai? Consigli del dottor Ongaro, con la consulenza del dottor Ongaro e del nostro Antonio Caielli, noi abbiamo svoltato. Non sarebbe male, non sarebbe male come idea, anche perché aiuterebbe molto anche a pianificare la spesa settimanale. Cerchiamo qualcuno che ci finanzi. Uno, brevettiamo immediatamente questa idea, fermiamola qua in questa stanza, perché sennò ce la ruba qualcuno. Io vorrei sapere se il dottor Ongaro e Stefano Polato vanno o restano. Restate, sì. Io ho dei pazienti che mi stanno aspettando. Mannaggia, dottor Ongaro. Va bene, grazie che è stato con noi. Dottor Ongaro, torni presto. A presto. Buona giornata. Un abbraccio. Stefano rimane, Stefano, perché con Stefano parleremo. No, perché ci sono le ricette del riciclo, certo, degli ascoltatori, dobbiamo assolutamente commentarle insieme. Così, se Antonio Caielli ci fa comprare qualche cosina, almeno poi noi ricicliamo tutto. Ma te non lo pensavo giuro che fosse così a cattivo. Ma è diventato, guarda, andare a fare la spesa dopo che parli con lui ci metti 8 ore e ti vengono. Ma ci divertiamo, molto, ci divertiamo. Molto. Dopo adesso, meno male che c'è il GR, dai. Cuore e denari. Dai, usciamo a fare la spesa. Manda aranci, mele, frutti esotici. Scotch al malto, vini ed analcolici. Sai che non mi piace. Oggi a Cuore Denari vi stiamo accompagnando, se volete, la nostra compagnia, a fare una spesa rispettosa dell'ambiente. Nella giornata mondiale dell'ambiente cerchiamo anche di farla un po' rispettosa della salute, del nostro benessere, del portafoglio. Certo che mettere insieme tutto questo non ma è semplice. Ma noi ce la faremo, perché i nostri esperti ci hanno promesso di aiutarci a cambiare il modo di fare la spesa, di farlo quindi in modo consapevole, con maggiore attenzione. Abbiamo capito, ci avete dato tanti indizi, anzi ce l'avete detto proprio papale che non bisogna andare a fare la spesa con la lista, ma bisogna prima pensare al menù. E allora adesso concretamente però ci dite come fare e come soprattutto evitare di cadere in quelle trappole che Antonio Caielli conosce bene, che racconta nel suo spettacolo, perché ci sentiamo un po' tutti boccaloni, no? Poi alla fine, perché lui pensa che non entra al supermercato da 2 anni. Va a fare solo la spesa nei piccoli negozi oppure nei mercati rionali. Ogni tanto scende, compra, metti, non so, 2 chili di mele e le porta a casa. Poi, giusto? Diciamo adesso che ci vado per lavoro. Sì. Perché per studiare il marketing, i fenomeni a disposizione dei prodotti, questo sì. Allora, le pubblicità. Adesso una sinergia tra i nostri due esperti. Altro che. Per insegnarci a che cosa poi alla fine mettere, perché insomma poi qualcosa dobbiamo mangiare, no? Infatti. Allora, intanto chiediamo ai nostri ascoltatori e ribadiamo questa domanda: come vi recate a fare la spesa? Qual è il vostro armamentario? Chiamiamolo così. Avete una borsa, un borsone di fiducia, una sporta di fiducia, un carrellino, il block notice per la lista della spesa, oppure andate di corsa senza portarvi nulla e insomma buttate dentro nel carrello tutto quello che vi piace, che vi attira e tutto quello che immaginate serva a casa vostra? 800 24 00 24, segnalo Nicoletta che Luca su Facebook ci ricorda ancora di parlare dei gruppi d'acquisto, l'abbiamo fatto tante volte, per cui Luca assolutamente conosciamo bene questa modalità di fare un pochino di scorta, non per una ma per molte famiglie. Qua c'è tutto uno spirito, una filosofia dietro a queste organizzazioni, però noi ne parliamo naturalmente, le osserviamo soprattutto con grande attenzione. Non sappiamo, non è sicuramente il gruppi d'acquisto il modo con cui la moglie di Antonio compra, perché Antonio ci scrive che sua moglie pare telecomandata, stesso supermercato, stessi prodotti, dei prezzi non si occupa, e poi quando Antonio la vuole aiutare facendo la spesa come dice lui, come a dire come, che è quel modo giusto, perché certo, io so, lei rifiuta, però lo taccia di menefreghismo. Allora Antonio, impari anche lei, così recepisca i consigli dei nostri esperti e poi farà un'ottima figura anche con sua moglie. Vogliamo dargli questi consigli? Antonio, Stefano, chi inizia? Antonio? Se posso, sì, ma io farei, allora facciamo così, rubo il mestiere a Stefano Polato. Allora io vorrei fare il menù, ripeto, e poi farei questo, cercherei dal menù di ricavare quello che serve per realizzare questo menù. Ma c'è ancora un passaggio importante da fare, immaginate questo, noi siamo a casa, in cucina, seduti, ci stiamo facendo il menù della settimana o se riusciamo addirittura di un mese. Facciamo un esercizio in più, che è quello di dare un prezzo a questo bene, a questo piatto, e scopriamo una cosa importante, cioè scopriamo che ci sono dei piatti che costano molto di più e altri che costano di meno. Ma ci sono anche dei piatti, diciamo l'ultima colonna, l'aggiungerei, quella del tempo che ci vuole per cucinarli. Allora, mentre ragioniamo su questo, decidiamo che dei piatti sì sono buoni, ma sono complicati, costano tanto, ci vuole tanto farli. Non è il momento, li riserviamo magari al sabato e alla domenica e scegliamo di farli in quella fase. E poi cominciamo a giocare su questo, no? Perché poi vedrete che all'inizio si parte tutti quanti con le lasagne, le cose complicate, poi si scopre andando avanti che il menù più semplice è quello che, diciamo, durante la settimana è più comodo, costa di meno, è facile da organizzare e si può fare con i materiali di recupero, con il cibo di recupero, e quindi si diventa dei bravissimi giocatori perché è divertente. Io non so cosa ne pensa Stefano Palato, ma io credo sia molto divertente anche la cucina di recupero, perché è inventiva e gioia di fare le cose con le cose che abbiamo già. Certo. Allora sentiamo Stefano Palato e poi le ricette anche del recupero dei nostri ascoltatori. Palato. Sono completamente d'accordo e apprezzo anche che si sia parlato di rapidità di esecuzione, se così vogliamo chiamarla, perché una delle cose che la società ci impone naturalmente è la riduzione del bonus tempo, soprattutto in cucina per le casalinghe o i casalinghi. Quindi pensare anche ad ottimizzare il tempo vuol dire fare anche una spesa preparatoria, ossia quel giorno che abbiamo, che andiamo magari in un centro commerciale, ci prendiamo un'oretta e entriamo nel supermercato per imparare a leggere le etichette, per imparare a qualificare e a decidere quali sono gli ingredienti che possiamo utilizzare e quali sono gli ingredienti che sono secondo noi migliori rispetto ad altri, in modo tale che la seconda volta che si entra nel supermercato siamo molto più rapidi nella scelta. Quindi mi piace il concetto di ottimizzare sia i costi ma anche i tempi, insomma, che oggigiorno insomma è tempo denaro. Il tempo è prezioso. Alessandro da Bologna, ci dia subito la sua ricetta del riuso. Buongiorno a tutti Nicoletta, buongiorno Deborah e i suoi ospiti. Grazie. Dunque, ricetta del riuso, come diceva Palato, insomma, materiali, cibi che rimangono, base, il pane per esempio, la carne, la verdura. Allora, per il pane premetto rigorosamente integrale come filippo docente, chiaramente. Ecco. Io normalmente è secco, quindi lo grattugio, lo uso come impanatura per il pesce, oppure lo uso secco, bagnato nel latte di soia, e poi faccio delle polpette, un trito magari con la carne rimasta dal brodo, principalmente pollo e qualche taglio magro, in modo che poi comunque la carne mantenga anche una certa morbidità data dall'unione del pane che assorbe poi il latte di soia, che chiaramente non ha caseine, quindi andiamo sempre a trovare Filippo. Ormai è un incubo. Ormai è vero, ma Alessandro. È proprio un compagno di vita, perché sì, veramente ci ha insegnato tanto. Insomma. Mentre per le verdure, due consigli: cioè io partirei dal fresco, quindi eventuali pinzimoni, sì, mai condire niente, perché sennò la verdura non si tiene. Sì. E poi a scalare. Cioè, condirla solamente nel piatto, al momento. E poi a scalare, se il pinzimonio magari rimane lì, fare un'insalata fresca con dell'orzo e un po' di tonno. Se invece andiamo oltre, magari preparare un bel passato, un minestrone, ecco, queste cose qui. Ed eccoci. Senti, qua. Senti come Stefano, ce l'ha condita lì. Stefano, ma Alessandro, voglio dire, è veramente bravissimo, quasi polatesco, direi, un incrocio tra ungaro e polato. È fantastico riscontrare queste esperienze, perché significa che qualcosa, insomma, abbiamo fatto. Anche perché, scusa Stefano, volevo ricordare ai nostri ascoltatori le ricette di Stefano Palato con il bollino, il placet di Filippo Ungaro, che sono sulla pagina di Cuore Denari, dove veramente potete trovare delle idee straordinarie anche per creare i vostri menù, perché tante volte non c'è la fantasia, esatto. Invece se tu vedi delle ricettine dici guarda questo, poi non è che devo neanche starci lì tre ore per mettere insieme queste pietanze in maniera ottimale per la salute e per i soldi. Andiamo da Alda e poi presento la prossima ospite, perché ci dà altri suggerimenti molto ecocompatibili, un po', chiamiamoli così. Alda, buongiorno. Una buona giornata anche voi, e la trasmissione è molto interessante, come lo sono sempre anche tutte le altre giornate. La mia domanda è molto semplice. Io vorrei soltanto sapere, naturalmente con questa crisi si tende sempre a risparmiare i prodotti, sia quelli freschi che quelli a lunga conservazione. Io parlo per fagioli, lenticchie, latte un po' meno veramente per quanto riguarda la mia scelta. però vorrei sapere se gli alimenti, sia quelli freschi che a lunga conservazione, che costano di meno, hanno dei controlli inferiori rispetto a quelli che costano di più, quelli di marca, diciamo così. Certo, quindi un po' vuole sapere la differenza anche delle modalità di produzione e distribuzione tra centri commerciali, magari insegne della grande distribuzione molto famose, Antonio Caielli, e i discount che vengono sempre di più scelti da parte dei consumatori, hard discount in particolar modo, dove c'è la sensazione che, siccome oggettivamente tutto costa in maniera piuttosto inferiore, e che allora la qualità ne vada un po' ad essere, come dire, abbandonata. Abbandonata. Sì, sicuramente. Ma citavate prima il rapporto della Coldiretti, ci sono anche altri studi che secondo me spiegano un po' questo tema. La sensazione è questa, che risparmiando, pagando meno, diciamo la verità, in italiano si direbbe fare economia, cioè pagare un bene meno di quello che costa normalmente, perché risparmiare è un'altra cosa, non so se è chiaro a tutti, ma risparmiare significa mettere da parte, cioè in italiano c'è proprio un problema linguistico di confusione, noi pensiamo di comprare una cosa meno e risparmiare, no, noi stiamo facendo economia in italiano. Economie. Io non so perché lui guarda sempre me comunque, a te non ti guarda, mi guarda sempre fisso negli occhi, ma, come per dire, hai capito bene? Parliamo di Ungaro quando guarda me, ecco appunto, che però, non c'è adesso. No, è importante perché è una confusione che ci costa, c'è una ricerca tempo fa di quanto la lingua influenzi i costumi, soprattutto in Giappone, soprattutto sul tema del risparmio, beh in questo caso in Italia ci crea un problema. Allora cosa ha fatto in questo senso il marketing? Si è appropriato di questo concetto del risparmio pensando che il prodotto costa meno, e l'ascoltatrice dice una cosa importante, il dubbio è quello che pagando meno si abbassa la qualità. Ora, il perché tema si dice, no? Sempre anche nel proverbio, chi più spende meglio spende, errore. A volte lo è, però vedete, dalla mia prospettiva, il quanto costa un bene, qual è la qualità, è un discorso un po' più complesso, perché dipende ad esempio dal packaging, dalla pubblicità che paghiamo, da tutti quei fattori che concorrono a creare il prezzo. Quello che sicuramente succede, questo sì è stato studiato, è che quando andiamo in un supermercato di qualità abbiamo una certa aspettativa, quando entriamo in un supermercato discount abbiamo un'aspettativa completamente diversa, e siccome ricordiamo il prezzo nominale appiccicato a un bene, compriamo di più, compriamo molti più prodotti. E funziona così. Allora, purtroppo c'è anche da ricordare, segnaliamo ai nostri ascoltatori che magari non hanno fatto attenzione a questo aspetto, che anche proprio la modalità di disporre i beni negli hard discount, non dico che sia più superficiale, lasciata al caso, è fatta con un po' meno di attenzione ossessiva rispetto agli altri centri commerciali, che hanno logiche di marketing molto invece esasperate proprio per attirare l'attenzione, per cui anche quello si paga un po' di meno. Allora, volevo leggere, perché molti ascoltatori ci portano al supermercato per raccontarci come fanno la spesa. Daniela dice che usa il carrello piccolo, prende prodotti a lunga conservazione e poi prodotti in base a un menu programmato per 3-4 giorni. E qualche cosa in offerta, ma solo se la usa abitualmente. Un altro ascoltatore invece non va al supermercato, ma fa la spesa su internet con consegna a domicilio. A proposito di tempo, lui dice si risparmia, vediamo se utilizza questa parola in modo corretto, per due motivi: non girando tra gli scaffali non si prendono schifezze inutili che l'occhio vede, e poi le offerte su internet si vedono subito, il tempo che avanza lo dedica a giocare con i suoi figli. Questo è il suggerimento di Paolo, che ci scrive da Lecco. Stefano, stava raccontandoci forse una ricetta, Stefano, che ti abbiamo interrotto? Eri lì sul buono? Era un'idea, visto che abbiamo parlato di recupero di verdura, recupero di carne, recupero di vegetali, io parlerei anche di recupero della frutta. Parto dalla prima colazione. Bravo. Adesso va molto, farsi la centrifuga, e vediamo che nel bicchierino a fianco abbiamo molto scarto. Se noi facciamo attenzione prima di inserire la frutta nella centrifuga, togliendo ad esempio il picciolo della mela e i semini interni, bastano quelli, con lo scarto, quello che noi chiamiamo scarto, possiamo produrre adesso che è estate di ghiaccioli. Quindi facciamo bollire acqua e un cucchiaio di zucchero di carne integrale, e buttiamo dentro gli scarti della centrifuga e mettiamo negli stampini, riutilizzando ad esempio gli stampini dello yogurt, e con uno stecchino o una forchettina di legno facciamo il nostro ghiacciolo. Ecco, questo può può essere un esempio. Ma sapete, la a proposito, cosa... scusa Stefano, a proposito, prego. Sai che gira su internet, peccato che il dottor Ongaro non c'è, se una leggenda metropolitana. No, c'è questa, la dieta del ghiaccio, dimagrire mangiando. C'è questa, l'hai letto, di questo gastroenterologo americano che si è inventata questa dieta, perché lui dice che un litro di ghiaccio al giorno, hai voglia di mangiare ghiaccioli, no? Ci fa consumare quanto una corsa di un paio di chilometri, ovvero circa 160 calorie. E quindi questo dice sì, perché tu devi riscaldare questo cibo. Tu pensa tutta la cosa della tradizione, il gusto, eccetera, uno mangia ghiaccio. Ma meglio i ghiaccioli di Stefano Polato. Se possibilmente fatti in casa, che è anche meglio. Polato, sento un po'. Ah, sì. Sì, volevo aggiungere semplicemente una cosa che secondo me è fondamentale quando si parla di cucina degli avanzi. L'importante è vedere l'avanzo come un ingrediente, perché di solito si guarda alla colomba, al panettone, alle lenticchie, a questo, a quello, come un prodotto finito. Se noi invece facciamo un passo indietro e lo identifichiamo come un possibile ingrediente per una nuova ricetta, ecco che possiamo sbizzarrirci. Quindi il limite mentale è quello che ci impedisce tante volte di riutilizzare il prodotto avanzato. E avanti, io vedo, sai che Caglielli, Stefano, che intanto dirti... prende appunti, perché non è che lui sa tutto, ecco. Qualcosa non la sa. È stato stregato da Stefano Polato, ma Stefano Polato, voglio dire, fa anche mangiare gli astronauti, quindi è avanti, è proprio Però sentiamo nell'abitudine quotidiana, poi se è tanto avanti. Polato, adesso a parte quando deve scegliere, come dire, di attrezzare il ristorante, per le sue abitudini personali e casalinghe domestiche, quando va a fare la spesa, con che tipo di borsa va o ritorna a casa? Allora, io ho sempre delle borse in macchina, come la signora di prima, e tendo sempre ad utilizzare i cartoni che sono spesso messi a disposizione. Eccolo lì. I cartoni, sì. Però volevo fare un altro riferimento. Facciamo un passo indietro. Durante la spesa, forse Caglielli l'ha sottolineato, forse un ospite, scegliamo un carrello piccolo. Sì, un SMS anche la dimensione del carrello, cioè a noi sembra di arrivare a casa col carrello mezzo vuoto, abbiamo 200 litri di portata e tendiamo sempre a caricarlo troppo. Se invece prendiamo quei carrellini di plastica che sono alle entrate dei supermercati, ecco che forse arriviamo col carrello pieno. Io generalmente ci faccio andare mio nipote, ecco, io voglio dire due carrelli, in realtà voglio dire il consiglio di un nostro ascoltatore che dà alla moglie 10 minuti di tempo la cronometra, e qua siamo veramente all'esasperazione. Allora, 2 minuti di tempo, 5 ne dedichiamo invece all'iniziativa Porta la Sporta, con la quale da molti anni si cerca di sensibilizzare cittadini e istituzioni sull'uso, o forse un po' più sull'abuso, dei sacchetti di plastica. Oltretutto abbiamo anche dei precisi obiettivi europei da raggiungere, che mirano proprio ad imporre il riciclo di molti materiali, plastica e carta in primo luogo. Silvia Ricci, buongiorno e bentornata al nostro programma. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Porta la Sporta se l'ha inventato proprio lei molti anni fa, perché appunto ha voluto farsi portatrice di questo messaggio: attenzione a tutta la plastica che fa molta fatica ad essere abbattuta poi nell'ambiente, no? Ad essere distrutta, per cui adesso in qualche maniera i cittadini italiani sono invitati, anche perché poi le pagano se le chiedono al supermercato, a non richiedere più queste buste di plastica. Come sta andando la campagna, Silvia, e quali risultati sono stati raggiunti in questi anni? Beh, la campagna sta andando bene, nel senso che la campagna aveva anche uno scopo, diciamo, preparatorio, cioè di creare un network, una serie di contatti con amministratori, associazioni su tutto il territorio nazionale, in modo poi da fare partire anche iniziative che sono degli step successivi rispetto all'uso della sporta. Diciamo che va bene nei supermercati, proprio perché c'è il disincentivo costituito dal pagamento del sacchetto biodegradabile, e molto meno bene nei mercati e diciamo nei negozi del piccolo commercio, dove una nostra iniziativa durata 6 mesi, in cui abbiamo monitorato il consumo di sacchetti, quello che è venuto fuori è che è proprio il negoziante o comunque il direttore del supermercato a determinare il consumo di sacchetti. Quindi diciamo la nostra anima green purtroppo è molto condizionata da quello che è l'atteggiamento educativo diciamo del contesto. Però insomma, molto curiosa questa cosa che raccontava, che se dobbiamo andare al supermercato ci ricordiamo oggi di portarci dietro le nostre, no Nicoletta, non so se tu ce le hai, non so, tutte colorate, sì, queste nostre nuove buste di cotone. Se invece sabato mattina andiamo al mercato non ci viene automatico, perché abbiamo la certezza che poi lì la prendiamo dal venditore ambulante. Però ricordiamoci magari di cambiare anche questa abitudine. Quali suggerimenti, Silvia, possiamo dare ai nostri ascoltatori che da oggi si sensibilizzeranno sul disuso, chiamiamolo così, del sacchetto di plastica? So che voi per esempio suggerite sempre di più di servirsi dei prodotti sfusi, no? Che stanno ritornando a, diciamolo così, di moda. Anche sì. Certo, perché ritornare allo sfuso significa anche riappropriarsi di quella che era la cultura del risparmio, la cultura di evitare lo spreco che faceva parte del passato. Ecco, questo è anche importante. Poi allo stesso tempo, ritornando al discorso dello spreco di cibo e del cibo locale, di stagione, eccetera, permette anche che si sviluppi un mercato, diciamo, di economia a chilometri zero. Questo è il valore aggiunto. Quindi i consigli sono molto semplici. Intanto pensare in termini di riuso e mai di usa e getta, in tutte le cose che uno fa nella giornata, nell'economia familiare. Poi portarsi sempre, avere sempre in macchina delle borse da lasciare nel portabagagli, oppure nella borsetta avere queste piccole borse che si possono, diciamo, utilizzare. Sì, si piegano, occupano davvero poco spazio. Esatto, quando uno compra la scatola di scarpe, cioè i miei figli sono nati con questi consigli, e anche se mi hanno sempre preso in giro, sono penso gli unici teenager che quando vanno a comprarsi un qualcosa se lo mettono nello zaino, oppure non portano a casa tutto l'imballaggio, in sostanza. Esatto, quindi serve moltissimo l'esempio e l'educazione che uno dà ai propri figli. Poi ad esempio dal panettiere non è assolutamente necessario ogni volta prendere sacchetto di carta. Ad esempio per i grissini io lo uso 4-5 volte sacchetto di carta, fino a che alla fine Silvia, lo sai che io ci ho provato dalla fruttivendola, mi ha riso un po' dietro quando mi sono ripresentata con i sacchetti di carta Ma bisogna sempre spiegare che noi siamo, come dire, siamo l'avanguardia del futuro, il futuro sarà questo. E poi il sacchetto del pane, se ricordiamo dal passato avevamo questi sacchetti bianchi, magari anche cuciti da vecchi teli, eccetera. Sacchetto del pane, anche questa è una cosa utilissima. Poi rifiutare gli imballaggi inutili, quindi quando andiamo al mercato e abbiamo una nostra borsa, è inutile avere 10 sacchetti di carta, ci sono tantissime cose, carote, patate, non lo so. No, poi è noi donne che abbiamo le nostre borse di Mary Poppins, dove dentro ci possiamo mettere tante. Io posso mettere anche il fruttarolo dentro la mia borsa, lo porto a casa per disimballare, eccetera. Poi terzo consiglio, visto che devo andare di fretta. Sì, che stiamo chiudendo. Detersivi alla spina, questo fa parte dei negozi sfusi. Assolutamente rompere le scatole anche ai supermercati locali chiedendo di introdurre questo sistema. 4. Impariamo a riconoscere gli imballaggi, perché gli imballaggi belli e impossibili sono proprio quelli che non vengono riciclati e sono e creano un impatto ambientale enorme. Noi abbiamo creato un'iniziativa che si chiama Meno rifiuti più benessere, che trovate sia andando sul sito www.portalasporta.it che comunivirtuosi.org, dove vi insegniamo quali sono gli imballaggi da evitare. Silvia, abbiamo firmare la petizione. Ottimo. Ok. Eccoci qua, ecco questo messaggio finale. Vedi? Alle 12.30 Silvia Ricci ha terminato tutti i suggerimenti che doveva dare anche i nostri. Suggerimenti bellissimi, infatti, da seguire, proprio in occasione della giornata dell'ambiente. Iniziamo almeno a sceglierne uno e poi lo portiamo avanti. Benissimo. Grazie a Stefano Polacco. A Silvia Ricci, ringraziamo Marco Lombardo, Laura Vanossi, ma soprattutto perché è il suo ultimo giorno con noi. La nostra Camillina Tomadini. A cui noi auguriamo ogni bene, naturalmente speriamo che si crei prima o poi l'opportunità per farla ritornare tra di noi. Grazie a tutti, noi torniamo domani. E anche al nostro Antonio Caielli. Grazie, a domani. Grazie a voi, arrivederci.